Rosciani e Meazza, buongiorno. Sono un ascoltatore di valore planetario e adesso più che mai in questo periodo nelle mie vene scorre più Radio 24 che sangue. Bravi, buon lavoro e buona giornata da Stefano. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Cara Deborah, buongiorno. Buona giornata. You will come be va? Queen, cantava David Bowie, quindi tu sarai sì. Regina. E quindi sì, Regina, comincia pure tu questa puntata di Due di Denari e spiegami perché abbiamo scelto sì? Heroes, Eroi, che è una canzone allora, che devo fare abbiamo un preambolo utilizzato lungo. Molto. Prego. Prima cosa, devo dirti che stamattina una possibilità di ritorno del Covid sta disturbando i mercati finanziari, che sono partiti molto male dall'Asia fino all'Europa, anche se adesso abbiamo qualche segno di miglioramento, ma ci faremo spiegare fra poco tutto quello che succede dal nostro esperto di mercati finanziari. Però diciamo che gli operatori dicono già che non sono convinti del fatto che l'emergenza sanitaria si stia superando e l'impatto economico è dirompente, come sapete, lo raccontiamo ogni giorno, e quando qualcuno ipotizza un Covid di ritorno è chiaro che i mercati finanziari si indispettiscono un po', e adesso ne parleremo. C'è un'indagine di INAP molto interessante, anche noi ogni tanto ragioniamo sulle tematiche sanitarie, rubacchiando anche il tema alla nostra amica Nicoletta Carbone, che però ci vuole molto bene e ci perdona. C'è un'indagine di INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle politiche pubbliche, che spesso ci offre molto materiale da commentare per le nostre trasmissioni, in particolar modo in quelle del mercoledì del lavoro, ma stamattina questo istituto indaga anche sul sistema sanitario di fronte all'emergenza. E allora, in base ad una indagine diffusa proprio questa mattina, sembra che gli italiani giudichino positivamente il servizio sanitario nazionale, e questo giudizio positivo è espresso da almeno 6 italiani su 10. Ma per metterlo in sicurezza dopo l'esplosione del Covid-19 bisogna, dicono appunto i nostri connazionali, rilanciare i servizi territoriali, che a quanto pare sono stati il vero anello debole di questi mesi e perno delle cure primarie. Tutto questo per arrivare a salutare un caro amico di Due di Denari, caro Mauro. Ah, che l'ho fatta un po' lunga, ma che spero di opera essere nella stata sanità. Precisa. Assolutamente, io volevo salutare con grande simpatia, grande affetto e ringraziarlo per la grande professionalità il dottor Alessandro Di Giulio. E scopriamo in queste ore, ma io lo sapevo già da tempi non sospetti, che i medici, i professionisti nel settore sanitario non ascoltano solamente Nicoletta Carbone, anche se la preferiscono di gran lunga, ma apprezzano anche i nostri argomenti, e quindi il tuo fisco, i miei mercati finanziari, e chiaramente anche loro pagano il mutuo, pagano le tasse, per cui devono tenersi informati anche su questi argomenti. Però io in particolar modo volevo salutare il dottor Alessandro Di Giulio, che peraltro è anche un tuo grande stimatore, e quindi salutalo anche tu, che ma così siamo ma è di Ancona, ortopedia dell'ospedale regionale Torrette di Ancona. Ma lo faccio molto volentieri e con il dottor Di Giulio. Naturalmente salutiamo tutti gli eroi, abbiamo imparato a chiamarli così, cioè i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, che in questi mesi sono stati la prima linea, il fronte contro l'emergenza coronavirus, e lo sono tuttora. Allora, hai già detto che oggi ci occupiamo di borse, perché ci sarà il consueto meteo borsa, mi immagino. Ci tocca, all'inizio ci tocca. Ma poi, sì. Allora, anche per accontentare chi apprezza pure le questioni fiscali, l'agenzia delle entrate, queste piacevolezze, insomma, della vita, allora, sai che facciamo? Come era stato annunciato, parleremo del contributo a fondo perduto, la grande novità del decreto legge rilancio, che da oggi può essere chiesta. Ma da chi e quanto e come? E lo spieghiamo con un collega di valore mondiale, cioè Giovanni Parente, tra l'altro uno degli autori anche oggi degli articoli insieme a Cristiano Dell'Oste, che in questi giorni avete visto venerdì, sabato, oggi stesso sul Sole 24 Ore. I numeri sono i soliti: 800 24 0024, di là dal vetro una sinuosa Claudia Schiattone è pronta ad accogliere e a gestire queste telefonate, naturalmente sempre vigilata dal favoloso Marco Lombardo, e poi c'è un prezioso Peter Bescapè che tutto vede e tutto controlla. I numeri, dicevo, 800 24 0024, e se volete invece preferire SMS e WhatsApp 349 238 6666. Parliamo di contributi a fondo perduto, ma lo facciamo dopo il meteo borsa. Che va via Eriksen, prova ad inseguirlo ancora Insigne. Ma cosa sta succedendo? Entra Insigne, pallone c'è sbagliato trasmissione. E arriva il pareggio del Napoli con il gol numero 120. Come mi siete banali di lunedì mattina. Ricominciamo adesso. Ma eravamo stati così tranquilli in queste settimane, ma perché? E ricominciamo con le cose fastidiose. Allora, la regia, per favore, se professionalmente vogliamo mandare la sigla giusta, quella di Meteo Borsa, grazie, grazie. Meteo Borsa. Allora, diciamo che sui mercati, come dire, gravano, se si può utilizzare questo verbo, delle nubi non proprio simpatiche, non di quelle che portano un po' di fresco quando è molto caldo, ma sono un po' di quelle che portano il temporale, tipo quello che abbiamo visto un pochino anche ieri sera a Milano di nuovo. Abbiamo in prospettiva una settimana ricca di appuntamenti, Mauro, ma monitoreremo attentamente l'andamento dei mercati europei, che sono reduci da una settimana nera. Pensa che la settimana scorsa Piazza Affari ha perso più di 6,5 punti, intorno al 7% tutte le altre piazze, e anche il risveglio di settimana non è proprio ottimale, perché anche stamattina abbiamo cali diffusi. In questo momento in miglioramento rispetto all'apertura, che era stata molto più brusca, ma ti do il quadro della situazione molto rapido prima di salutare il nostro ospite. Francoforte -1,65, Londra -1,36, Parigi -1,42, e Milano sta risalendo la china più rapidamente delle altre, -1,18% sul FTSE MIB. In Asia abbiamo visto anche cali di 4,5 punti, per esempio è successo in Corea, e poi molto brusco è stato il ribasso anche di Tokyo, -3,5 punti. Vuoi fare tu gli onori di casa con l'ospite che ci dà qualche indicazione prospettica sui mercati? Ma con piacere, e anche attendendo qualche chiarimento, qualche parola di chiarimento da lui. Giordano Beani è Head of Multi Asset Fund Solution per l'Italia di Amundi SGR. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno a voi e radioascoltatori. Allora, dottor Beani, come dobbiamo interpretare questo momento, diciamo, non favorevole dei mercati finanziari? Ci stanno, Deborah diceva prima, i timori per una ripresa della pandemia, stanno condizionando l'andamento. O ci sono anche altri rumors, altri nervosismi che stanno condizionando i mercati? Guardi, allora, intanto io sono sempre tendenzialmente ottimista, perché bisogna esserlo soprattutto nei momenti più difficili. Quindi girerei la questione dicendo che non dobbiamo dimenticare che dai minimi del 23 marzo i mercati sia statunitensi sia europei avevano recuperato fino al 5 giugno oltre il 40%. Allora è chiaro che sulla base di questo forte recupero, e peraltro inaspettato direi nella maggior parte dei casi, una caduta come quella che abbiamo avuto settimana scorsa intorno al 6,8% per i mercati europei, 4,9% per l'America, un proseguo stamattina del ribasso, secondo me è nella natura delle cose. Dopodiché ci sono sempre i motivi che noi troviamo per spiegare un qualche cosa che magari è più fisiologico che altro. I motivi sostanzialmente sinteticamente sono stati: settimana scorsa la conferenza stampa della Federal Reserve, che ha lasciato un po' sorpresi sul fatto che Jerome Powell sostanzialmente ha dichiarato che la crisi durerà molto più di quanto i mercati non si aspettino. Secondo luogo, le incertezze relative al piano dell'Unione Europea, con la Germania, no, che ha fatto un po' retromarcia sulla dimensione del fondo, e Stati del Nord Europa che sono comunque contrari a contributi a fondo perduto, e in terzo luogo, come diceva lei, la ripresa un po' dei contagi in alcune aree come gli Stati Uniti e soprattutto la Cina, appunto le notizie di Pechino delle ultime ore, che però, ripeto, sembrano quasi un po' più scuse per una presa di beneficio che non in realtà un'inversione di tendenza nuova. Diciamo che abbiamo la sensazione, Beani, che qualcuno aveva fatto un po' troppo affidamento sulla ripresa economica post pandemia. Ci sembrano prematuri i tempi per ricominciare a correre, lo diciamo naturalmente da semplici osservatori, ma in certe giornate abbiamo visto forse un entusiasmo esagerato, e chiaramente quando poi le preoccupazioni su un ritorno del contagio ritornano, ecco che passano all'incasso gli operatori che comunque hanno tratto vantaggio da questa fiammata dei mercati che si è manifestata in qualche settimana. I temi invece a cui dovremmo fare attenzione nei prossimi giorni dal punto di vista macroeconomico: abbiamo in Europa la pubblicazione dell'indice ZEV dalla Germania, la fiducia degli analisti, arrivano anche dati importanti dalla Cina, e questa è un'economia che chiaramente osserviamo molto attentamente, perché se riprendono a marciare là dal punto di vista economico ne traiamo tutti dei grandi vantaggi. Dagli Stati Uniti che cosa arriva? Beani, c'è poi una riunione importante, quella della Bank of England, e anche quello è un tema che un pochino abbiamo lasciato indietro, no? Dal punto di vista Brexit, intendo dire. È importante questa riunione di questa banca centrale, ne abbiamo anche un altro paio, peraltro anche quella russa, che è previsto tagli i tassi di interesse. Beani. Sì, direi che a questo quadro aggiungerei ovviamente l'importante appuntamento del 18-19, cioè con il Consiglio europeo, che è chiamato proprio a discutere della proposta della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen su questo Next Generation EU, questo piano, diciamo, di ripresa e di rilancio per le economie europee e dell'area euro in particolare. Quindi direi che l'attenzione per quanto riguarda noi investitori europei sarà concentrata molto su quello. Poi, giustamente, come ha sottolineato lei, oltre ai dati appunto cinesi che abbiamo avuto già stamattina, ci saranno sempre negli Stati Uniti produzione industriale e vendite al dettaglio, che saranno appunto guardati con attenzione per capire se la riapertura graduale sta dando, diciamo, qualche spunto di sollievo. Per finire anche con il survey, quindi con il sondaggio sullo stato dell'economia della Federal Reserve regionale di Philadelphia, il cosiddetto Fed Survey, sul finire di settimana. Ecco, avremo tutta questa serie di indicazioni, Beani, e avremo in ultimo anche un'indicazione preziosa sul nuovo titolo di Stato lanciato dal Ministero nostro per l'emergenza coronavirus, perché venerdì dovremmo avere anche la durata per il BTP Futura, se ricordo bene, quindi l'ulteriore emissione che, di cui magari poi ci occuperemo nelle puntate prossime, nelle settimane prossime. Questo aumento del debito è, secondo lei, in questo momento necessario, insomma, ben sopportabile per quanto riguarda il nostro paese, ma in generale un po' tutti i paesi che stanno aumentando fortemente le emissioni di debito? Allora, direi che ovviamente il tutto è legato da un lato all'azione della Banca Centrale Europea, che, come abbiamo visto settimana scorsa, ha aumentato di ben 600 miliardi il programma di emergenza pandemico, portandolo a 1.350 miliardi, quindi un grosso sostegno comunque al debito periferico arriva da quel canale. In secondo luogo bisogna tenere presente che sarà molto importante capire appunto la dimensione e le modalità di questo fondo per la ripresa, che verrà discusso appunto nell'ambito del Consiglio europeo, quindi la riunione dei capi di Stato e dei primi ministri dell'Unione europea, che si terrà questa settimana. Ciò detto, appunto, se queste due condizioni, nel senso piano di aiuti e sostegno della BCE, saranno mantenuti, è chiaro che il nostro debito può essere anche sostenibile, visto che sono stati eliminati anche i parametri classici, no, di Maastricht, sospesi almeno per il momento data l'emergenza. Con riferimento alle emissioni a cui faceva riferimento del BTP Futura, giustamente venerdì avremo la durata, che dovrebbe essere tra gli 8 e i 10 anni, appuntamento forse ancora più importante per capire l'appetibilità dell'investimento sarà il 3 luglio, quando verranno comunicate le cedole, che, come è stato anticipato, saranno delle cedole crescenti, no, che in gergo tecnico si chiama formula di step up, quindi cedole crescenti che verosimilmente dovranno dare probabilmente un rendimento un po' migliore rispetto alla durata del titolo, che sia di 8 o 10 anni. Ma la cosa molto più importante, diciamo, per l'investitore qui è il fatto che ci sarà il premio fedeltà, così come è stato fatto con l'ultimo BTP Italia, un premio fedeltà che in questo caso sarà legato alla crescita del prodotto interno lordo del paese, da quando ci sarà l'emissione alla scadenza, e questo premio aggiuntivo oscillerà tra un minimo dell'1% e un massimo del 3%. Lo sottolineo perché chiaramente noi partiamo adesso da una base molto bassa, visto che il nostro prodotto interno lordo nel primo semestre si contrarrà, come sappiamo, diciamo almeno del 10%. Quindi si parte da una base molto bassa, per cui verosimilmente si potrebbe raggiungere tranquillamente questa crescita media nei prossimi 10 anni tra l'1 e il 3%, quindi prendersi anche il premio aggiuntivo. Grazie, grazie a Giordano Beani, Head of Multi Asset Fund Solutions per l'Italia di Amundi SGR. E cara Debora, abbiamo qualche notiziuola del giornale radio del risparmio, e poi nella seconda parte, come belle, detto, contributi a fondo perduto, adesso GRR. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Cara Debora, sai che spesso si dice parenti serpenti? Sì, e mi allora... sa che devi cambiare titolo alla canzone, anch'io ci ho pensato leggendo la notizia, ma pensa un po', guarda. Sì, perché qui c'è, al posto che il serpente corallo, il cognato serpente esatto. Corallo, perché è un promotore finanziario che appunto si è, giovandosi del fatto che era il cognato di due coniugi, e come dire, li ha convinti a investire su di lui. Lui sosteneva che avrebbe comprato titoli di Stato, in realtà probabilmente esatto, l'unico Stato che, a cui puntava era, sì, il esatto, suo di un Stato altro pianeta, di benessere di uno personale stato... esatto, e quindi gli ha sottratto più o meno, mi pare di capire, esatto, 110.000 euro. Ecco, la questione esatto, è arrivata però in tribunale, per fortuna il giudice ha condannato il promotore, che non si è presentato peraltro al giudice. Sono no, stupita. No, infatti. E gli investitori però, grazie a Consumer, un'associazione di consumatori di cui sì, spesso facciamo il nome, appunto, che vi citiamo spesso, grazie a Consumer i due risparmiatori hanno ottenuto una sentenza a loro favorevole, e quindi ci dovrà essere il rimborso, il ristoro per quanto riguarda appunto la banca di riferimento di questo promotore, del parente serpente, infatti, del cognato tra l'altro, serpente posso... corallo. Esatto, del cognato serpente corallo. Posso aggiungere che la cosa che dispiace di questa vicenda è noi, con grande senso di responsabilità, abbiamo deciso di non citare la società che questo sedicente promotore finanziario, consulente finanziario appunto, rappresentava, perché è una grande azienda italiana, e sono certa appunto che all'interno di questa grande rete di consulenti finanziari non siano contenti dell'operato appunto molto spesso totalmente in malafede di qualche loro rappresentante ed esponente. Peraltro stiamo parlando di qualcosa come di oltre 100.000 euro, quindi non è che questi signori fosse stato suggerito un investimento di poche migliaia di euro, ma di diverse migliaia, per cui insomma una doppia condizione di dispiacere che ha fatto bene Consumer a portare appunto davanti al tribunale, in particolar modo l'avvocato Giovanni Franchi, che è di Parma ed è un grande esperto, peraltro io lo portavo spesso, Mauro magari te lo farò conoscere, a Salva Danaio in passato, perché ha fatto un grandissimo lavoro anche per tutte le persone che sono rimaste vittime del crack Parmalat. Chiusa parentesi, che cosa ci racconta l'INPS oggi? L'INPS ci ha spiegato, in realtà ce l'aveva spiegato proprio nel fine della scorsa settimana, che è possibile presentare la domanda per il reddito di emergenza anche tramite i servizi offerti dai CAF, dai centri di assistenza fiscale. Allora, queste domande vanno presentate all'INPS entro il 30 giugno, quindi il termine è vicino. Gli altri canali naturalmente sono quelli già noti, cioè quello online, che è possibile percorrere avendo la SPID, cosiddetta, il sistema pubblico di identità digitale, almeno di livello 2, oppure e poi serve un PIN naturalmente presso la sede dell'INPS, e poi tramite i servizi offerti dai patronati, quindi anche i CAF in campo per il reddito di emergenza. Scusate l'incertezza, ma effettivamente ci sono diverse provvidenze, diverse indennità fornite in questi mesi, e ho sempre il timore di citare la provvidenza sbagliata. Debora. Velocemente ricordiamo, ma questa è proprio telegrafica per chi non lo avesse fatto, siccome sono stati rinviati i termini per qualunque situazione nel nostro paese a causa dell'emergenza, come sapete sono state rinviate anche è stato rinviato anche il termine per mettersi in regola con il cambio gomme. E allora generalmente il cambio dagli invernali agli estivi di pneumatici appunto deve essere fatto entro il 15 maggio. In questo caso, causa Covid, ovviamente il termine è stato procrastinato al 15 giugno, quindi oggi è l'ultimo giorno disponibile per mettersi in regola, anche se sono certa che se qualcuno dovesse essere pizzicato con delle gomme non ancora cambiate, ma comunque ben funzionanti, non sarà particolarmente severo il funzionario che dovesse riscontrare appunto questa irregolarità, perché chiaramente anche i gommisti e tutti gli operatori del settore hanno dovuto rimettersi come dire in carreggiata con grande rapidità, quindi accontentando tutti i clienti che erano rimasti indietro con questa sostituzione. Caro invece, Mauro, che si fa adesso? Adesso sì. Guarda, sono le 11:30, quasi e 31, tra pochi tardissimo. Secondi, è tardissimo. Allora andiamo subito a vedere che cosa stanno facendo le borse, se recuperano un pochino. Dai, le borse. Complimenti a Deborah perché c'è una voce meravigliosa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Allora, me lo giuri che non sarà un click day, che non ci sarà oggi pomeriggio un altro data breach? Guarda, giuri in giurello? No, perché, ma aspetta, io non giuro su niente e nessuno se non ho prima la presenza accanto a me, almeno in voce, del collega Giovanni Parente. Buongiorno Giovanni, bentornato a Due di Denari. Buongiorno, bene. Grazie a voi per l'invito. Ciao. Allora, giuri? Dobbiamo parlare di contributo a fondo perduto, Giovanni. Abbiamo scritto, abbiamo ospitato anche le dichiarazioni reiterate dell'Agenzia delle Entrate, ad esempio, che ha detto non sarà un click day, c'è tempo, ci sono i fondi. Quindi da oggi pomeriggio si può richiedere il contributo a fondo perduto stabilito dal decreto legge cosiddetto rilancio, il decreto legge 34, ma c'è tempo. Giovanni, smentisci o confermi? Che dobbiamo dire agli ascoltatori? No, io dico che c'è tempo, ovviamente, perché questo è il messaggio che è stato fatto filtrare anche a tutti i livelli dell'amministrazione finanziaria. Del resto, però Mauro, immagino che la necessità anche di avere liquidità in questo momento possa portare a fare la domanda il prima possibile. Anche perché, come avevamo anticipato su Sole 24 Ore di venerdì 12 giugno, l'obiettivo è quello di liquidare poi queste pratiche il prima possibile. Ci è stato detto che l'obiettivo realistico potrebbe essere entro 10 giorni. Perché non ci sarà nessun controllo sostanziale all'inizio su questa. Sulle domande che verranno inviate, ma ci sarà un controllo esclusivamente sulla, diciamo, che chiamano loro di coerenza, sostanzialmente se il dato del codice fiscale è corretto o attiene a una persona che esiste ancora, persona fisica o società che è ancora in vita, oppure se l'IBAN effettivamente è indicato per l'accredito è quello giusto, c'è stato un errore. Esatto, perché ricordiamo, hai fatto bene Giovanni a specificare anche il tema dell'IBAN, perché molto spesso, Mauro, te lo ricorderai, quando abbiamo fatto le varie puntate sul tema dell'indennità, il bonus di 600 euro per i professionisti e le partite IVA eccetera, risultava proprio che l'INPS dovesse anche combattere un po' con le pratiche compilate in maniera sbagliata, e spesso l'IBAN compilato male era proprio uno dei errori più gettonati riscontrati anche dall'INPS, che poi deve fare, come l'abbiamo ribattezzato, il supplemento di istruttoria. Per cui fate attenzione, magari prendetevi un'ora in più, ma compilate correttamente la richiesta. Scusa Mauro, ho fatto un po' la maestrina, ma visto che abbiamo un pregresso, mi sembrava utile anche fare questa raccomandazione ai nostri ascoltatori. Guarda, hai fatto benissimo, intanto io ne faccio un'altra. Allora, il Sole 24 Ore già venerdì e poi sabato ancora con un articolo domenica è intervenuto, esatto, spiegando molti dettagli di questo contributo a fondo perduto. Questi numeri dei giorni passati restano a disposizione anche online per gli abbonati al nostro sito, al nostro abbonamento anche digitale, www.ilsole24ore.com, lì potete trovare anche gli arretrati. Naturalmente è un servizio riservato agli abbonati. Adesso con Giovanni Parente vorrei fare un minimo di riepilogo. Cominciamo da quanto si può prendere, perché non è semplicissimo, è una percentuale in realtà che si va a prendere con un valore minimo e un valore massimo. E poi vediamo di ricordare chi può e chi non può, perché sul non può già ovviamente c'è molta così agitazione anche in Parlamento. Giovanni, la misura, quanto si può chiedere per questo contributo a fondo perduto? Allora, spieghiamolo bene, è una, ovviamente si tratta di una misura che è di un importo che è commisurato all'entità di calo del fatturato nel confronto che viene effettuato tra esclusivamente questi due mesi, attenzione, aprile 2019 ed aprile 2020. Cioè, quindi prendo il mio fatturato dell'aprile o i miei corrispettivi, insomma le mie note, esatto. Aprile 2020, prendo le mie note, lo stesso valore aprile 2019 contro aprile 2020, ho avuto un calo presumibilmente perché c'è stato il coronavirus. E cosa succede? Faccio una differenza, c'è un valore, un numero negativo, e quindi che cosa faccio con questo valore, Giovanni? In questo caso, sostanzialmente, quando facendo praticamente la differenza tra il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019, si applica una percentuale del 20% se, attenzione, ricavi e compensi del 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro, 15% se ricavi o compensi complessivi sono compresi nella fascia tra 400.000 e 1 e fino a 1 milione di euro, 10% se ricavi e compensi sono superiori a 1.001.000 e fino a 5 milioni di euro. Quindi in questo caso, oltre alla differenza in termini di fatturato e corrispettivi, entra in gioco quelli che sono stati i ricavi complessivi maturati nell'arco del 2019. Quindi attenzione. Mi aspetta, prego Giovanni, prego. No, scusa Mauro, volevo dirti solo questo, che ci possono essere dei casi in cui ovviamente, e l'ho specificato anche la circolare di sabato scorso, quella che dicevate voi giustamente del contributo a fondo perduto, in cui ovviamente questo confronto non può esserci perché ad esempio c'è chi ha avviato l'attività, ad esempio non l'ha avviata da aprile 2019, l'ha avviata dopo aprile 2019, quindi mancherebbe il termine di confronto. Quindi sostanzialmente nel caso in cui in queste situazioni, o comunque anche se ci si dovesse trovare sotto dopo aver fatto questo confronto, è previsto comunque un plafond minimo di 1.000 euro di contributo per le persone fisiche, sostanzialmente chi svolge essenzialmente da solo la sua attività, e 2.000 euro per i soggetti diversi da persone fisiche, e sono sostanzialmente in questo caso, banalizzo, le società. Quindi insomma, in ogni caso, quando è spettante, cioè quando vengono rispettati i parametri dei ricavi e compensi, che possono essere massimo fino a 5 milioni, e c'è il calo del fatturato, che ricordiamo il fatturato fatturato e corrispettivi di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell'analogo ammontare, cioè quindi fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019. Quando sono rispettate queste condizioni, in ogni caso il contributo sarà comunque a un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società. Allora, con questo abbiamo raggiunto una prima precisazione. Molti ci stanno scrivendo per sapere, ma a me spetta o non spetta? Allora, questo lo chiariamo dopo il traffico. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni e aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. milione di denari. Buongiorno Roberto da Vibo Valentia, come si fa a inserire gli agenti di commercio nella differenza di fatturazione tra aprile 2019 e aprile 2020? L'agente di commercio fattura trimestralmente e fattura per ciò che è maturato e venduto anche mesi e mesi prima. È possibile che nessuno ci abbia pensato per dare un sostegno? Saluto. Ma tra l'altro, Mauro, credo proprio che non sia solamente una problematica che attiene all'attività degli agenti di commercio, no. Perché immaginiamo che ci siano molte categorie che percepiscono i compensi per l'attività svolta con settimane e mesi di calma, ecco, mettiamola così, un po' di tranquillità. E poi ci sono le esclusioni normative vere e proprie, cioè aborigine, nel senso categorie che, per le quali il decreto legge rilancio dice contributo a fondo perduto, a voi non spetta. Ad esempio, esatto, ci ha chiamato Stefano da Treviso. Buongiorno Stefano. Stefano, buongiorno. Stefano? Ci chieda. Niente, volevo chiedere, mi è stato detto che per accedere al contributo a fondo perduto non bisogna aver usufruito dei 600 euro precedenti nel mese di quelli marzo, del Cura Italia, sì. Del Cura Italia, sì. E poi volevo chiedere, ho sentito che non bisogna superare un terzo del fatturato dell'aprile dell'anno precedente. Sì, no, ma si ragiona per differenza, però lo rispieghiamo. Grazie Stefano. Giovanni, allora, cominciamo rispiegando il fatto della differenza del terzo del fatturato e poi andiamo ai soggetti esclusi e inclusi dal contributo? Sì, va benissimo. Allora, lo ripeto, insomma, la condizione sì, sostanzialmente è l'altro lato della medaglia. Che cosa? Il fatturato dei corrispettivi di aprile 2020 devono essere inferiori ai due terzi di aprile 2019, quindi sostanzialmente c'è questo calo sostanzialmente che deve essere registrato e devono essere messi a confronto le due variabili, quindi ripeto, aprile 2019 e aprile 2020, e quindi sostanzialmente quello di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi di aprile 2019. Quindi questo, se ad aprile 2019 ho fatturato 90 euro, devo avere, per avere il contributo, devo fatturare non più di 60 euro nell'aprile 2020. Esatto, bravissimo. Questo bravissimo. È il senso, è molto detto proprio in aritmetica. Questa è molto banalmente la questione. Quindi questa è la condizione fondamentale sostanzialmente. Poi c'è tutto, la domanda sulla trimestralità. In questo caso non è stata scelta la liquidazione IVA, attenzione, perché ovviamente si parla proprio di fatturato, cioè nel senso quanto è stato fatturato il mese di aprile 2019 e di aprile 2020. Parlo di fatturato perché in questo caso di agente di commercio non si può parlare di corrispettivi. Quindi il confronto va fatto sulle fatture emesse aprile 2019, fatture emesse aprile 2020. Anche se sono ad esempio note di debito, note di credito, fa fede l'emissione, diciamo sostanzialmente nei due mesi che vengono presi a paragone. Molti mi hanno scritto nel weekend perché c'è una. L'hanno scritto anche i nostri esperti sullo speciale che è uscito sabato. C'è una questione legata al fatto che ci sono anche le cessioni di beni strumentali, che ovviamente potrebbero farli evitare in un senso o nell'altro il fatturato dei due mesi. Ovviamente è più probabile che facciano lievitare cessioni di beni strumentali si siano verificati ad aprile 2019 che ad aprile 2020, quindi in questo senso potrebbe essere più un aiuto che un ostacolo, perché c'era l'emergenza Covid e quindi insomma per quei beni più pesanti che sono stati ceduti è più probabile che siano stati ceduti nel 2019. Adesso però ci sono quelli esclusi. Prego Deborah. Prego Deborah. No, sì, ero proprio appunto a ricordarvi, ma non che ce ne fosse bisogno, la checklist delle categorie. Una curiosità avevo, ma in realtà poi proprio mentre così stavo formulando con me stessa questa domanda è arrivata anche al nostro indirizzo di posta, Mauro, una mail di Roberto che ci chiede ciao ragazzi, ma dov'è il software? Nel senso che immaginiamo chieda dov'è esattamente il link, la pagina sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla quale inoltrare la domanda. Io io credo certo. che dovremmo dire anche questo, Giovanni, nel senso, visto che no. si parte da oggi pomeriggio, ma dove devono andare appunto i nostri amici contribuenti, professionisti, tutti coloro che ne hanno diritto appunto a compilare questa istruttoria sostanzialmente per avere il contributo a fondo perduto? Certo. Chi sostanzialmente volesse utilizzare la domanda con il fai da te, è chiaro che deve accedere dall'area fatture e corrispettivi, che è quella che viene abitualmente utilizzata per chi emette le fatture elettroniche, per chi trasmette i dati sui corrispettivi telematici e non si avvale sostanzialmente di software gestionali. Quindi dal sito dell'Agenzia delle Entrate si può accedere anche a quest'area che si chiama fatture corrispettivi e può trasmettere la domanda di fondo perduto. Molto banalmente il link c'è già dalla home page del sito dell'Agenzia delle Entrate, cioè www.agenzieentrate.gov.it, altrimenti si può usare un motore di ricerca e cercare fatture corrispettivi entrate e si viene indirizzati direttamente alla mascherina che consente l'accesso ovviamente con i dati di login riservati per poter appunto visualizzare la propria area. L'altro canale è quello che però è a disposizione degli intermediari abilitati, sostanzialmente i professionisti che inviano anche le dichiarazioni o fanno anche altri adempimenti, che è il canale Entratel. All'interno di quel canale sarà disponibile l'area per poter inviare telematicamente la domanda. Poi faccio una piccola precisazione, immagino che anche questa forse contro il tempo che è stata fatta proprio per poter partire il prima possibile, tutte le software house di solito stanno anche sviluppando moduli gestionali che consentano poi di trasmettere la domanda interfacciandosi già anche con i dati sul fatturato, perché chi ha sistemi un po' più complessi, non sto parlando magari di chi ha strutture un po' più leggere, può pescare i dati e poi trasmettere e interfacciarsi, ma questo è una vicenda che attiene poi al tipo di fornitura che si ha con la propria software house. Però ultimo, i canali sono questi, sono fatture corrispettivi ed entra per chi si avvale di un intermediario. Ultimi 30 secondi, Giovanni, non può prendere questo contributo a fondo perduto chi ha preso i 600 euro ed era nelle gestioni ad esempio dei parasubordinati o i professionisti. Esatto, è il famoso articolo 27 del Cura Italia con cui si è sostanzialmente una preclusione a poter accedere al contributo a fondo perduto di maggio, sostanzialmente, che fondo perduto sostituisce quel contributo. Esatto, il contributo. Attenzione che questo non vale per commercianti e artigiani, precisiamolo, perché per loro invece vale il Cura Italia sempre che rientrino nelle famose condizioni del limite di ricavi e compensi e esatto. nel caso del confronto del calo del fatturato. Quindi no professionisti, no gestione parasubordinati IMSS, no lavoratori spettacolo. Siamo arrivati in chiusura, Deborah, siamo lunghi, allora bene, ci speriamo rinviamo a domani idee, per sì. Paolo da Verona. Ottimo. Può scriverci 2 di denari @radio24.it. A domani.